se i soldi erano soldi della mafia o anche soldi della mafia. Io posso dire soltanto che una ventina di giorni dopo l'omicidio di Giorgio Ambrosoli, all'inizio di agosto del 1979, Michele Sindona è scomparso dagli Stati Uniti facendo credere di essere stato rapito da un gruppo terroristico. Invece, accompagnato da mafiosi e da massoni, si era clandestinamente nascosto in Sicilia, dove è rimasto due mesi e dove in quei due mesi ha incontrato i personaggi più di spicco della mafia italiana e sulla seconda, e italo-americana. Sulla seconda domanda? La seconda domanda è, credo che sia impossibile riuscire a generalizzare. Io penso che ci sia magari l'una cosa e temo qualche volta anche l'altra, cioè che si ricorra magari a strumenti e a mezzi diversi.